Fergal! Eccomi qua Luca! Buon Hello everybody! This is Fergal Kavala! Here we are, happy new year to everybody all over Europe! Nel nuovo millennio, veramente adesso il 2001, io sono rientrato dopo un viaggio orrende, aeroporto chiuso con ghiaccio, adesso sono arrivato un'ora fa e mi trovo a casa con gli studenti che abitano sotto e siamo qua a vedere tutti i fuochi dal balcone. Abbassa un po' la radio Fergal perché c'è un ritorno terribile. Sì, bravo. Grazie. Questo l'avrei voluto sapere. Reduci allora dal concerto di Moby, vero? Wow, è stato proprio un bel concerto, sì, sì, quello è un mito. E stasera quale suono è Moby? Suono ad Edimburgo e dicono che pure Madonna e Guy Ritchie saranno lì. Quindi è proprio un avvento, capito? Comunque Luca, auguri! Anche a te, Kavanagher. Senti, voglio dire saluti, voglio salutare tutti quanti gli ascoltatori e scuse che per la mia mancanza oggi. Auguri, buon 2001, sarà il migliore. Dai, tranquillo che ci rifaremo qua, partiremo assieme per tutto il mese di gennaio. Grazie per aver colorato. Facciamo la patenata dopo un paio di birre, va? Ok, ciao. Auguri Fergal, grazie per aver colorato anche questi primi attimi del 2001. Noi siamo pronti per mettere altra musica da studio, continuate a chiamarci al centralino, raccontateci i primi minuti, i primi attimi del nostro nuovo anno del 2001 allo 081 790 1411. Grazie Umbi per un po' di panettone. Vai.